Capitolo 24. Carattere e imprese di Demetra. Benché le sacerdotesse di Demetra, dea dei campi di grano, si assumano il compito di iniziare ai misteri dell'alcova le giovani spose e i giovani sposi, la dea non ha marito. Ancor giovane e spensierata, essa generò a Zeus, suo fratello, al di fuori di ogni vincolo coniugale, il lussurioso Iacco e la bella Core. Ebbe un altro figlio, Pluto, dal titano Giasio o Giasione, di cui si innamorò durante la festa per le nozze di Cadmo e Armonia. Riscaldati dal nettare che scorreva come fiume al banchetto, i due amanti sgusciarono fuori dal palazzo e si unirono su un campo 3 volte arato. Al loro ritorno Zeus indovinò quel che era accaduto dall'aspetto dei due e dal fango che ne incrostava le braccia e le gambe e, furibondo contro Giasio, perché aveva osato toccare Demetra, lo colpì con la sua folgore. Ma altri dicono che Giasio fu ucciso da suo fratello Dardano, oppure fatto a pezzi dai propri cavalli. Demetra ha un animo gentile, ed Erisittone, figlio di Tropia, fu uno dei pochi uomini che essa trattò con durezza. Alla testa di 20 compagni, Erisittone osò invadere il bosco sacro che i Pelasgi avevano dedicato alla dea ad Ozio, e cominciò ad abbattere alberi sacri per costruirsi una nuova sala per i banchetti. Demetra assunse l'aspetto della ninfa Nicippa, sacerdotessa del bosco, e gentilmente ordinò a Erisittone di desistere. Ma quando costui la minacciò con la sua ascia, Demetra gli si rivelò in tutto il suo splendore e lo condannò a soffrire la fame in perpetuo per quanto mangiasse. Erisittone ritornò a casa e si abbuffò dalla mattina alla sera a spese dei suoi genitori, ma più mangiava più diventava magro e roso dai morsi della fame, finché non fu più possibile fornirgli altro cibo ed egli dovette mendicare per le strade mangiando rifiuti. A Pandareo di Creta, invece, che rubò il cane d'oro di Zeus e la vendicò così per l'uccisione di Giasio, Demetra concesse di non soffrire mai di dolori intestinali. Demetra perdette tutta la naturale gaiezza quando le fu rapita la figlia Core, in seguito chiamata Persefone. Ade si innamorò di Core e si recò da Zeus per chiedergli il permesso di sposarla. Zeus temeva di offendere il fratello maggiore con un rifiuto, ma sapeva d'altronde che Demetra non l'avrebbe mai perdonato se Core fosse stata confinata nel Tartaro. Rispose dunque diplomaticamente che non poteva né negare né concedere il suo consenso. Ade si sentì allora autorizzato a rapire la fanciulla mentre essa coglieva fiori in un prato, forse presso Enna in Sicilia, o a Colono in Attica, o a Ermione, o in qualche punto dell'isola di Creta, o presso Pisa, o presso Lerna, o presso Feneo in Arcadia, o presso Nisa in Beozia, insomma in una delle molte regioni che Demetra percorse nella sua affannosa ricerca. Ma i sacerdoti della dea sostengono che il ratto avvenne a Eleusi. Demetra cercò Core per 9 giorni e 9 notti, senza mangiare né bere, invocando incessantemente il suo nome. Riuscì a sapere qualcosa soltanto da Ecate, che un mattino all'alba aveva udito Core gridare «Aiuto, aiuto!», ma accorrendo in suo soccorso non vide più traccia di lei. Il 10° giorno, dopo lo sgradevole incontro con Posidone, tra il branco di cavalli di Onco, Demetra giunse in incognito a Eleusi, dove re Celeo e sua moglie Metanira la accolsero ospitalmente, invitandola a rimanere presso di loro come nutrice di Demofoonte, il principino appena nato. La loro figlia zoppa Giambe cercò di consolare Demetra, declamando versi lascivi, e la balia asciutta, la vecchia Baubo, la indusse con un trucco a bere acqua d'orzo profumata alla menta. Poi cominciò a gemere come se avesse le doglie e inaspettatamente tirò fuori di sotto le sottane il figlio di Demetra, Iacco, che balzò tra le braccia della madre e la baciò. «Ah, come bevi avidamente!» esclamò Abante, il figlio maggiore di Celeo. Demetra gli lanciò un'occhiataccia e Abante fu trasformato in lucertola. Pentita e un po' vergognosa per l'accaduto, Demetra decise di fare un favore a Celeo, rendendo immortale Demofoonte. La notte stessa lo tenne alto sopra il fuoco per bruciare tutto ciò che in lui era mortale. Metanira, che era figlia di Anfizione, entrò per caso nella stanza prima che la cerimonia fosse finita e ruppe l'incantesimo. Così Demofoonte morì. «La mia casa è la casa della sventura!» gridò Celio, piangendo l'amara fine dei suoi due figli, e per questo in seguito fu chiamato Disaule. «Asciuga le tue lacrime, Disaule», disse Demetra. «Ti rimangono 3 figli, tra i quali Trittolemo, cui io farò tali doni che scorderai la duplice perdita». Trittolemo, infatti, che custodiva il bestiame del padre, aveva riconosciuto Demetra, dandole le notizie che sperava. 10 giorni prima i suoi fratelli, Eumolpo, pastore, ed Eubuleo, porcaro, si trovavano nei campi intenti a pascolare le loro bestie, quando la terra all'improvviso si squarciò, inghiottendo i maiali di Eubuleo sotto i suoi stessi occhi. Poi, con un pesante tamboreggiar di zoccoli, apparve un carro trainato da cavalli neri e sparì nella voragine. Il volto del guidatore del carro era invisibile, ma egli stringeva saldamente sotto il braccio destro una fanciulla che lanciava alte strida. Eubuleo aveva narrato l'accaduto a Eumolpo. Avuta questa prova, Demetra mandò a chiamare Ecate e insieme si recarono da Elio, che vede ogni cosa, costringendolo ad ammettere che Ade si era macchiato di quell'ignobile ratto, probabilmente con la connivenza di Zeus. Demetra era così furibonda che, invece di risalire all'Olimpo, continuò a vagare sulla terra impedendo agli alberi di produrre frutti e alle erbe di crescere, tanto che la razza umana minacciava di perire. Zeus, che non osava recarsi da Demetra a Eleusi, le mandò dapprima un messaggio a mezzo di Iride e Demetra disdegnò di riceverla. Poi una deputazione di dei olimpi che recavano doni propiziatori. Ma Demetra rifiutò di tornare sull'Olimpo e giurò che la terra sarebbe rimasta sterile finché Core non le fosse stata restituita. Un'unica soluzione si presentava ormai a Zeus. Egli affidò dunque a Ermete un messaggio per Ade: «Se non restituisci Core, siamo tutti rovinati», e un altro a Demetra: «Potrai riavere tua figlia purché essa non abbia ancora assaggiato il cibo dei morti». Poiché Core aveva rifiutato di mangiare sia pure una briciola di pane dal giorno del ratto, Ade fu costretto a mascherare la propria sconfitta e le disse con voce melliflua: «Mia cara, poiché mi sembra che tu sia tanto infelice, ti riporterò sulla terra». Core subito cessò di versare lacrime e Ade la aiutò a salire sul carro. Ma nel momento in cui essa si preparava a partire per Eleusi, uno dei giardinieri di Ade, chiamato Ascalafo, cominciò a gridare in tono derisorio: «Ho visto la mia signora Core cogliere una mela grana nell'orto e mangiarne 7 chicchi. Sono dunque pronto a testimoniare che essa ha assaggiato il cibo dei morti». Ade sogghignò e disse ad Ascalafo di arrampicarsi dietro il cocchio di Ermete. A Eleusi Demetra abbracciò felice la figlia, ma udita la storia della mela grana ricadde in un profondo abbattimento e disse: «Non tornerò mai più sull'Olimpo, e la mia maledizione continuerà a pesare sulla terra». Zeus indusse allora Rea, che era madre sua nonché di Ade e di Demetra, a interporre i suoi buoni uffici e si giunse così a un compromesso. Core avrebbe trascorso ogni anno 3 mesi in compagnia di Ade, come regina del Tartaro e col titolo di Persefone, e gli altri 9 mesi in compagnia di Demetra. Ecate si assunse il compito di fare rispettare i patti e di sorvegliare costantemente Core. Demetra acconsentì finalmente a risalire sull'Olimpo. Prima di lasciare Eleusi, iniziò ai misteri Trittolemo, Eumolpo e Celeo, unitamente a Diocle, re di Fere, che l'aveva assiduamente aiutata nelle sue ricerche. Ma punì Ascalafo per aver riferito l'episodio della mela grana, imprigionandolo in una fossa chiusa da un masso pesantissimo. Ascalafo fu in seguito liberato da Eracle e Demetra allora lo trasformò in un barbagianni. La dea ricompensò anche con messi abbondanti i feneati dell'Arcadia, che l'avevano ospitata dopo l'oltraggio fattole da Posidone, ma proibì loro di raccogliere fave. Un certo Ciamite fu il primo che osò infrangere il divieto e ora è a lui dedicato un tempio presso il fiume Cefiso. A Trittolemo la dea diede semi di grano, un aratro di legno e un cocchio trainato da serpenti, e lo mandò per il mondo a insegnare agli uomini l'agricoltura, ma prima lo istruì personalmente nella pianura Araria, ed ecco perché da taluni egli è detto figlio del re Raro. E a Fitalo, che l'aveva trattata con cortesia sulle rive del Cefiso, donò un albero di fico, il primo che si vedesse nell'Attica, e gli insegnò a coltivarlo. Core, Persefone ed Ecate erano, evidentemente, La dea nel suo triplice aspetto di vergine, ninfa e vegliarda, nei tempi in cui soltanto le donne partecipavano ai misteri dell'agricoltura. Core simboleggia il grano verde, Persefone il grano maturo ed Ecate il grano raccolto, e cioè la Carline Wife della campagna inglese. Ma Demetra era pure un appellativo generico della dea e Core ebbe in seguito anche il nome di Persefone, il che complica il mito. Il mito dell'avventura di Demetra nel campo tre volte arato ricorda un rito di fertilità che sopravvisse nei Balcani sino a epoca recente. Si suppone quindi che la sacerdotessa del grano si accoppiasse pubblicamente col re sacro durante l'aratura autunnale per assicurare un buon raccolto. In Attica i campi ricevevano una prima aratura primaverile, poi, dopo il raccolto estivo, venivano arati con solchi perpendicolari a quelli fatti in precedenza e con un aratro più leggero. E infine, quando fossero stati offerti i sacrifici agli dei del raccolto, venivano arati ancora secondo i solchi primitivi durante il mese autunnale di Pianepsione per prepararli alla semina. Persefone, da Fero e Fonos, colei che porta la distruzione, detta anche Persefatta ad Atene, da Ptersis e De Fapto, colei che conferma la distruzione, e Proserpina, la temibile a Roma, era pare un appellativo della ninfa che sacrificava il divino Paredro. L'appellativo Ecate, centinaio, si riferisce evidentemente ai 100 mesi lunari del suo regno e ai 100 raccolti. La morte per folgorazione o per il morso di cavalli o per mano del successore era sorte comune del re sacro nella Grecia primitiva. Il ratto di Core è soltanto una parte del mito nel quale la triade divina ellenica costringe alle nozze la triplice dea preellenica, Zeus Era, Zeus o Posidone Demetra, Ade Core. Così come nel mito irlandese, Brian, Yukar e Yukarba sposano la triplice dea Eire, Fodla e Bamba. La storia di Demetra, che rifiuta di far maturare il grano per l'umanità affamata, è un'altra versione del mito di Ino che cospira per distruggere il raccolto di Atamante. Inoltre, il mito di Core si riferisce anche all'usanza di sotterrare in inverno una bamboletta di spighe che veniva disseppellita in primavera. Tale usanza sopravvisse nelle campagne anche in epoca classica ed è illustrata da pitture vascolari dove si vedono uomini che mediante picche liberano Core da un monticello di terra oppure aprono la testa della madre terra con delle scurie. La storia di Erisittone, figlio di Tropia, ha un carattere morale. Tra i greci come tra i latini e gli antichi irlandesi, la violazione di un bosco sacro era punita con la pena capitale. Ma la disperata e insaziabile bramosia di cibo, quella smania insomma che gli elisabettiani chiamarono il lupo, non pare una punizione appropriata per un tagliaboschi sacrilego, e il nome di Erisittone, anch'egli nato da un figlio di Cecrope, il patriarcale divoratore di torte d'orzo, significa colui che apre la terra, il che ci fa supporre che il suo crimine consistesse in realtà nell'aver osato arare un campo senza il consenso di Demetra, come fece Atamante. La leggenda di Pandareo che ruba il cane d'oro ci fa pensare a un intervento cretese in Grecia, quando gli Achei cercarono di riformare i riti agricoli. Il cane, rubato alla dea Terra, pare sia una prova tangibile dell'indipendenza del gran re Acheo dalla dea stessa. I miti di Ila, Adone, Litierse e Lino si riferiscono al lutto annuale per la morte del re sacro o del suo sostituto, cioè il fanciullo sacrificato per placare la dea della vegetazione. Il medesimo fanciullo di sostituzione appare nella leggenda di Trittolemo, che viaggiava su un cocchio trainato da serpenti e portava con sé sacchi di grano, per simboleggiare che la sua morte recava ricchezza. Egli era anche Pluto, ricchezza, concepito in un campo arato di fresco, donde venne l'eufemistico appellativo di Ade Plutone. Trittolemo, Triptolmaios, che osa tre volte, fu forse un appellativo che il re sacro si meritò per aver osato tre volte di arare il campo e accoppiarsi con la sacerdotessa del grano. Celio, Diocle ed Eumolpo, cui Demetra insegnò l'arte dell'agricoltura, rappresentano i capi sacerdoti della lega anfizionica. Metanira è descritta come figlia di Anfizione, che onoravano la dea Eleusi. A Eleusi, a Vento, città micenea, si celebravano i grandi misteri eleusini durante il mese detto Bedromione, che corre per aiuto. Gli iniziati di Demetra, caduti in estasi, celebravano simbolicamente la sua unione con Giasio o Tritolemo o Zeus, in un segreto recesso del tempio, facendo scorrere un oggetto fallico in su e in giù in uno stivaletto da donna. Perciò il nome Eleusi fa pensare a una forma corrotta derivata da Eli Tuies, il tempio, di colei che freme in un luogo nascosto. I mistagoghi, vestiti da pastori, facevano poi il loro ingresso con grida gioiose, recando un cesto di vimini che conteneva il fanciullo Brimo, figlio di Brimo Furente, frutto immediato di quel matrimonio rituale. Brimo era appellativo di Demetra e Brimo sinonimo di Plutone, ma i suoi sacerdoti lo invocavano più spesso come Iacco, dal dissoluto inno Iacco, che si intonava il sesto giorno della celebrazione dei misteri durante la processione di torce in onore di Demetra. Eumolpo rappresenta i pastori che portano cantando il bambino. Tritolemo è un mandriano al servizio di Io, la dea luna, nella sua epifania di vacca, che irrigava il grano seminato. Ed Eubuleo è un porcaro al servizio della dea Marpessa, o Forci, o Chera, o Cerdo, la dea scrofa che faceva germogliare il grano. Eubuleo fu il primo a rivelare la sorte di Core, perché porcaro negli antichi miti europei equivale a veggente o mago. Così pure Eumeo, che ben ricerca il porcaro di Odisseo, viene chiamato con l'appellativo di Dios, simile a Dio. E benché nell'epoca classica i porcari avessero cessato da tempo di esercitare l'arte profetica, si sacrificavano ancora porci a Demetra e a Persefone, facendoli precipitare in voragini naturali. Non si dice che Eubuleo avesse beneficiato delle istruzioni di Demetra, probabilmente perché il culto della dea scrofa era stato soppresso a Eleusi. Raro, sia che significhi aborto o grembo, è un nome ben poco appropriato per un re, e si riferiva senza dubbio al grembo della madre del grano da cui germogliava il grano. Giambe e Baubo personificano i canti osceni in metro giambico che si cantavano per alleviare la tensione emotiva durante la celebrazione dei misteri eleusini. Ma Giambe, Demetra e Baubo formano la consueta triade di Vergine, Ninfa e Vegliarda. Abante fu trasformato in lucertola perché le lucertole si trovano nei luoghi più caldi e asciutti e possono vivere senza acqua. Questo aneddoto morale ammaestrava i fanciulli a rispettare gli anziani e a riverire gli dei. La storia di Demetra, che tenta di rendere immortale Demofoonte, ha un parallelo nei miti di Medea e Teti. Si riferisce in parte all'usanza di immunizzare i fanciulli contro gli spiriti maligni, accendendo loro accanto un fuoco sacro subito dopo la nascita, e in parte all'usanza di bruciare fanciulli in sostituzione del re sacro, conferendo in tal modo a questi ultimi l'immortalità. Cereo, il nome del padre di Demofoonte, significa colui che brucia o picchio o stregone. Un tabù primitivo riguardava i cibi di colore rosso che potevano essere offerti soltanto ai morti, e si diceva che il melograno, come l'anemone scarlatto dagli 8 petali, fosse sbocciato dal sangue di Adone o Tammuz. I 7 chicchi di melagrana rappresentano forse le 7 fasi della luna che debbono trascorrere prima che i contadini vedano germogliare il grano. Ma Persefone, che mangia la melagrana, è in origine Sheol, la dea dell'inferno che divora Tammuz, mentre Ishtar, che è sempre Sheol sotto diverso aspetto, piange per placarne l'ombra. Anche era un tempo dea della morte, reggeva nella mano una melagrana. La Scalafos, o Barbagianni, dalle orecchie corte, era un uccello di malaugurio e la leggenda del pettegolo a Scalafo si riferisce al chiasso che fanno i Barbagianni in novembre, all'inizio cioè dei 3 mesi di assenza di Core. Fu Eracle che liberò Ascalafo. Il fico donato da Demetra a Fitalo, la cui famiglia era una delle più importanti dell'Attica, significa semplicemente che la caprificazione del fico, ottenuta mediante l'innesto di un ramo di fico domestico su una pianta di fico selvatico, cessò di essere una prerogativa femminile. Il tabù che vietava agli uomini di seminare fave Pare sia durato più del tabù che vietava loro di seminare il grano, forse per lo stretto rapporto che esisteva tra le fave e le ombre dei morti. A Roma si gettavano fave alle ombre durante la festa dei morti, e se una pianta cresceva da codeste fave e una donna ne mangiava i frutti, sarebbe stata fecondata da un morto. I pitagorici infatti non mangiavano fave per non privare un antenato della possibilità di reincarnarsi. Si dice che Demetra giungesse in Grecia passando da Creta e che approdasse a Torico in Attica. La cosa pare probabile. I cretesi infatti si erano insediati in Attica, dove, per i primi, sfruttarono le miniere d'argento dell'Aurion. Inoltre Eleusi è una località micenea e Diodoro Siculo dice che riti analoghi a quelli eleusini venivano celebrati a Cnosso e che, secondo i cretesi, tutti i riti iniziatici erano stati inventati dai loro antenati. Tuttavia Demetra è di origine sicuramente libica. I fiori che secondo Ovidio Core stava raccogliendo quando Ade la rapì erano papaveri. Un'immagine della dea con papaveri tra i capelli fu rinvenuta a Gazi in Creta. Un'altra dea, in un'impronta di sigillo proveniente da Paleocastro, reca papaveri in mano e nell'anello d'oro del tesoro dell'Acropoli di Micene si vede una Demetra seduta che dona 3 papaveri a Core, ritta in piedi. I semi di papavero venivano usati per insaporire il pane e i papaveri erano naturalmente associati con Demetra, dato che crescono nei campi di grano. Ma Core raccoglie o accetta in dono papaveri per via delle loro qualità soporifiche e per via del loro colore scarlatto che promette la resurrezione dopo la morte. Essa infatti è sul punto di ritirarsi per il suo sonno annuale.